sotto gli alberi il suo cuore di limone, in attesa sui binari alla stazione, il diretto da Cuneo a Parigi è in partenza, state attenti tutti quanti, alla frontiera tra il Piemonte e l'arcobaleno. Lui si ispirava di ogni vagone, di ogni treno. Il ferroviere era un gran capostazione, chiamava il pane, il vino rosso e la canzone. Uomo dal destino tracciato, dalla Francia come poeta è tornato. Una funivia dalla valle dritta al cielo, una chitarra per diventare un po' più uomo. Tra le Alpi a rincorrere cervi, tra le mani fiordalisi e mirtilli, un pastore con un flauto di legno, una poesia appena scritta su un foglio. Battipanni sul balcone una donna, spolvera al vento la sua splendida gonna. Tra gli scogli spunta chiara una penna, il ferroviere come Rambo sulla Senna. Una barca sulla prua, una stella, una spilla sulle spalle di una donna. Il ferroviere sapeva leggere nel cielo e come un principe accoglieva ogni treno. Uomo dal destino tracciato, dalla Francia come poeta è tornato. Una funivia dalla valle dritta al cielo, una chitarra per diventare un po' più uomo. Tra le Alpi a rincorrere cervi, tra le mani fiordalisi e mirtilli, un pastore con un flauto di legno, una poesia appena scritta su un foglio.